Se vedi tre serie perché prendi mille sberle. BNL, Paribas, essere te per Caritas. Schiaccio queste bisce, poi tre strisce, non è Adidas. Tutti ben vestiti, dal cappello ai calzini. Roma come Kansas City, matti impazziti. Dai palazzi a Valle Aurelia, all'attico ai Parioli. Un colpo dal dischetto, come rigori. Travis è sceso in campo, la curva alza i cori. La cosa più dolce che posso dirti è magari muori. Biscio flow, oh no, è maremoto. Fuma due etti, così smetti di parlare a vuoto. Brutti stronzi, voglio vedervi andare a fuoco. Fare tanto, parlare poco. In cima alla piramide, Shirakawa. Salgo sul palco, abbiamo spawa. Guarda, mille colori, sembra un dipinto. Esco con un buco in testa, Abraham Lincoln. Prendi, posa, pesa, conta. Prendi e posare, pesare, contare. Dopo il 2013, chiama l'113. Quando vedi me, quando vedi me. Dopo il 2013, chiama l'113. Quando vedi me, quando vedi me.